iniziamo questa serata salutando Marco Pugliese, che ringrazio molto. Abbiamo iniziato il 2012 con lui, praticamente con un'iniziativa dove ha fatto un percorso storico con l'ausilio anche di immagini fotografiche proiettate e che... No. Mi siederò da qualche altra parte. Prego, fatemi, cerco io un posto dopo, non preoccupatevi. Mi arrangio, non è un problema. Ecco, e abbiamo iniziato in gennaio appunto con Marco Pugliese, professore delle scuole medie qui a Bolzano, che è un appassionato di fotografia, un grande intenditore ecco, di fotografia, ma anche di storia e del territorio. Tanto è vero che ci sono spesso dei suoi articoli sui periodici, su qui Bolzano in particolare, dove fa sempre uno scorcio di quella che è la nostra storia locale, tenendo presente anche quella che è la storia più antica. Quindi questa sera il titolo è accattivante: Druso il Germanico, l'Aquila e la fondazione di Bolzano. Una caratteristica di Marco Pugliese è anche quella di servirsi di immagini, e fa parte di un gruppo appunto di appassionati di fotografia che raccoglie, poi magari ci illustra un attimo anche l'obiettivo di questa associazione e il sito e dove si possono trovare altre immagini. E ecco, io vi auguro una buona serata, come sempre vi invito anche a leggere, a venire in biblioteca poi ad approfondire gli argomenti che vengono trattati in queste occasioni pubbliche così corali della sera, perché sono delle iniziative che facciamo per far conoscere questa biblioteca, ma per far conoscere soprattutto i servizi e i libri che in essa sono contenuti e vengono messi a disposizione di tutti. Anche per questo lasciamo sempre sulla sedia un opuscolo illustrativo, un modulo di iscrizione e gli appuntamenti successivi a quello in corso. Per noi le iscrizioni sono importanti perché in questo modo riusciamo a raggiungere tempestivamente gli utenti per segnalare le altre iniziative, chi a piacere le riceve per posta con una semplice cartolina, altrimenti usiamo anche le mail più ecologiche e più veloci da memorizzare. Bene, vi ringrazio e ringrazio ancora Marco Pugliese. Buona serata. Grazie. Salve, io vi auguro di nuovo buona serata e grazie per essere venuti. E volevo appunto, siccome io sono un appassionato di fotografie e ho creato insieme a degli amici un sito internet che si chiama fotobolzano.com.it, e su questo sito abbiamo messo immagini di Bolzano odierna, quindi scattate oggi, e foto di Bolzano risalente, foto di Bolzano del Novecento e qualcuna anche dell'Ottocento, qualcuno ci ha spedito qualche foto, quindi sono foto mandate dagli utenti, che sono stati tantissimi e sono stati veramente molti quelli che hanno mandato fotografie che adesso vivono all'estero, quindi dal Canada, dall'Australia, dall'Argentina, dal Brasile, dalla Germania, qualcuno che non è più tornato a Bolzano, quindi a rivedere anche Bolzano com'è diventata oggi, quindi dalle nostre foto a queste persone è venuta la voglia di mandarci le foto di com'è invece era Bolzano tempo fa, anni fa, quindi si parla del anni 30, queste sono persone che sono venute a Bolzano per lo più italiane, quindi si parla degli anni 30, anni 40 e poi magari se ne sono andate dopo la seconda guerra mondiale o negli anni 60, così a statistica. E io stasera mi occuperò della figura, oltre che umana, storica, di Druso, mi occuperò anche del suo significato a Bolzano, perché ci sono parecchie persone che conosco e anche miei alunni, studenti, che mi hanno proprio chiesto chi fosse questo personaggio, perché a Bolzano abbiamo un ponte, lo stadio, il viale Druso, che è una via anche abbastanza grande, quindi lunga, e molti però non sapevano, non conoscevano la storia di questo personaggio, che a dire la verità è anche una storia abbastanza corposa, perché non è un personaggio secondario nella storia di Roma, è figlio adottivo di un imperatore famosissimo, perché è Ottaviano Augusto, quindi sarebbe stato lui l'imperatore al posto di Tiberio, quindi avrebbe preso lui l'imperio, quindi il potere. il padre aveva creato un regime molto simile a, cioè, diciamo che Mussolini ha preso spunto da quel regime, quindi dal regime augusteo. È per quello che inizio da questa immagine, perché questa è un'immagine di un volantino degli anni 30 che indica a una camicia nera come fare il proprio lavoro. Quindi la milizia della strada, quella che adesso noi chiamiamo appunto polizia stradale, c'era al tempo, sapete che in Italia abbiamo un sacco di corpi di polizia, durante il fascismo ne avevamo ancora di più, perché ovviamente la milizia aveva la milizia forestale affiancata ai forestali, e la milizia della strada affiancata, perché duce e re dovevano avere entrambi il proprio esercito, quindi avevamo tutto doppio. E in questo caso l'immagine è emblematica perché vi è un ufficiale romano che indica appunto a questa camicia nera come fare il proprio lavoro, il proprio dovere. E questa immagine è il leitmotiv di tutto il fascismo, in pratica l'impero romano e il fascismo, e spesso anche a scuola se li hanno spiegati come, non dico faccia della stessa medaglia, però come grande spunto di Mussolini riguardo a quest'epoca, ed è proprio l'età augustea a cui si ispirò tutto il regime mussoliniano, dal nome dal nome stesso di Mussolini, Dux, quindi questa parola in realtà dannunziana più che mussoliniana, perché c'è anche D'Annunzio che diede una mano grossa a Mussolini. E quindi fece un po' una sorta di minestrone, però, il fascismo, cioè prese cose giuste, storiche, e le modificò a seconda della politica del tempo. Quindi Mussolini addirittura arrivò a parlare di protofascisti, cioè vuol dire che coloro che aiutarono Augusto a prendere il potere, quindi vari suoi generali, come poteva essere Agrippa o lo stesso, oppure il circolo famoso di Mecenate, dove lui appunto creò un vero e proprio ministero della propaganda, il Augusto, dove appunto questi, adesso noi li chiamiamo letterati, al tempo erano un po' tutto, però a quel tempo lì praticamente crearono e ricrearono anche la storia di Roma, perché appunto Virgilio, sapete tutti, che si è con l'Eneide ha dato lustro all'impero, al tempo neanche impero però si poteva chiamare, perché anche questo spesso a scuola non viene spiegato, perché si parla di Pax Augustea, che Pax Augustea non fu neanche tanto Pax, perché vi furono delle conquiste abbastanza imponenti in quel periodo storico, e soprattutto fu un'età dell'oro, ma per Augusto un'età dell'oro, perché lui in pratica riuscì con la propaganda a mistificare la propria figura, cioè lui arrivò al potere come Mussolini, con violenza, illegalità, facendo guerra ad altri suoi confratelli romani, eccetera eccetera, praticamente distrusse la Repubblica e si fece nominare imperatore, però fece finta che esistesse ancora la Repubblica. Infatti lui non si fece mai chiamare re, perché i romani erano proprio allergici alla parola re. E questa farsa che tutti conoscevano poi venne tramandata nei secoli, quindi poi si parlò di impero romano, di imperatore romano, però Augusto non si fece mai proclamare re, o lui era il primo cittadino, quindi teoricamente avrebbe potuto rimettere il potere. Lui fece finta di mettere il potere al Senato quando sconfisse Marcantonio, e fu una figura quindi abbastanza buia in realtà, perché tolse quelle libertà repubblicane pseudo-democratiche che si erano conquistati i romani nel corso dei secoli. Aveva già iniziato Cesare a fare quel tipo di lavoro, e Augusto lo completò. E diciamo che come personaggio storico ovviamente rimane importante, perché è da lui poi che venne che si creò l'impero romano, quindi il concetto storico che abbiamo noi di impero romano lo creò Augusto, Cesare e poi Augusto. Quindi questo parallelismo tra fascismo e regime di Augusto viene propinato agli italiani praticamente dal 22 fino alla caduta del Duce, e addirittura poi con la proclamazione del famoso impero nel 36 venne richiamato anche lì i colli fatali, quindi torna l'impero a Roma, ritorniamo a essere, eccetera eccetera. E ovviamente con le dovute differenze, perché non si poteva paragonare la potenza imperiale romana a quella dell'Italia degli anni 30, perché ricordiamo che l'impero, il nostro impero consisteva nell'Etiopia, nell'Albania, addirittura Etiopia, Albania e Libia, considerato uno scatolone di sabbia, quindi al tempo quindi non si conoscevano ancora i pozzi di petrolio, eccetera, e le risorse economiche di quello stato. E in pratica fu più che altro un impero di prestigio. L'Italia chiedeva di aveva vinto la prima guerra mondiale, chiedeva di far parte di quelle nazioni che potevano dire la propria. L'impero invece romano ebbe ben altra storia, cioè i romani invece facevano da padroni in Europa sul serio, nel senso che comandavano loro, e Augusto sottomise l'Egitto, ad esempio, quando si parla appunto della sottomissione dell'Egitto, la fine della monarchia egiziana, quindi Cleopatra che viene invitata o ad andare a Roma in catene o a suicidarsi, lei preferirà suicidarsi, si parla proprio da quel periodo lì, si parla poi proprio di vero e proprio impero romano, perché Roma, l'Aquila romana dalla Spagna fino alle remote regioni dell'Oriente in pratica sventolavano i vessilli romani. E più o meno, quindi formalmente la Grecia era libera, formalmente l'Egitto era libero, però in realtà pagavano tributi enormi allo Stato romano e in più avevano delle legioni stanziate nella zona. Quindi, per tornare a Druso, il fascismo, ecco qui ho trovato un altro volantino, quindi vedete l'immagine del Duce e il Colosseo nella zucca, nello sfondo, perché appunto Mussolini si rifaceva tantissimo alla cultura romana, e purtroppo questo con dopo la seconda guerra mondiale portò qualche svantaggio anche allo studio vero e proprio, secondo me, dell'impero romano e di tutta la storia romana, perché purtroppo anche alcuni storici autorevoli spesso sono andati ad affiancare un po' i due periodi un po' troppo spesso, nel senso che quando si parla di storia romana e di storia fascista, insomma, le differenze sono grandi e sono enormi, e forse alcune volte certi accostamenti potevamo risparmiarceli, però bisogna sempre considerare che venivamo da un periodo veramente burrascoso, da una guerra persa male, e quindi ovviamente si tendeva a cancellare tutto quello che era stato fatto nei 20 anni di fascismo. Anni in cui l'archeologia in Italia invece non venne poi trattata male, perché è vero che per scavare e tirar fuori i fori imperiali a Roma venne distrutto un quartiere stupendo del 600, però è anche vero che la manutenzione di quel periodo storico archeologico in Italia venne a galla, quindi vennero restaurate tante opere. Quindi da quel punto di vista gli archeologi potevano lavorare più in tranquillità, avevano a disposizione parecchi fondi, eccetera. La stessa architettura poi del fascismo ricorda molto l'architettura romana, razionale. Ecco, qui vi avevo messo anche questa, l'Italia finalmente il suo impero. Addirittura questo manifesto è ingannevole, perché chiaramente qui c'è tutta l'Africa. In realtà noi avevamo il Corno d'Africa, avevamo la Libia. E non avevamo tutta l'Africa, però l'italiano medio, chiaramente vedendo il volto di Mussolini e l'Africa, si sentiva come un inglese. A quel tempo il mito era l'Inghilterra, e l'Inghilterra aveva appunto l'impero. A Bolzano questa coda di impero appunto arrivò con la prepotente figura di Druso. Dico prepotente perché Druso venne quasi imposto alla città di Bolzano, venne detto: Druso fondò Bolzano, rifacciamo viale Druso, costruì un ponte su Isarco, Adige, eccetera, e arrivò qui nel tal anno, e fine della storia. Ora questo tipo di discorso è vero in parte, quindi Druso fondò un qualcosa qui che non si chiamava Bolzano al tempo, ma Pons Drusi, nelle carte romane si trova quello. E è curioso come nel 1200 a nord, quindi a Germania, Bolzano la chiamassero Drusianborg, città di Druso. Quindi questa figura storica non fu inventata, come ho sentito dire, dal fascismo. È una figura che anche nell'area tedesca è molto presente, anche perché i monumenti di Druso ce ne sono sparsi un po' per tutta la Germania. Nella stessa Magonza, dove Druso morì, vi è un bellissimo monumento intitolato a lui. Quindi non fu una figura minore di una persona che venne qui con 2 o 3 legioni, passò per Bolzano e il fascismo si inventò che ha fondato Bolzano e arrivederci. No, fece la via Claudia Augusta, iniziò lui a costruirla, quindi ecco, questo è il monumento di Magonza. Quindi classico stile romano, e lui morì lì, vicino a Magonza morì, cadde da cavallo, si ruppe un femore, rimase un mese nell'accampamento, lo raggiunse il fratello Tiberio per salutarlo e morì così, quindi morì non morì in battaglia, pur essendo un grande generale. Quindi vedete, adesso qui vi ho messo un'altra immagine del Ponte Druso, che venne appunto costruito con le aquile e simbolicamente venne proprio rivolto a conquista, quindi venne proprio costruito architettonicamente per far capire che questa zona era stata riconquistata. Non a caso, voi se fate il Ponte Druso avete l'Eurac, che era la vecchia Gil. E l'Eurac ha una torre che è vuota, adesso l'avranno riempita con qualcosa, però quando venne costruita dal fascismo quella torre era vuota, e tutte le case, sia le case del fascio sia comunque diciamo opere in cui entravano le persone, quindi visive, quindi opere proprio messe in mezzo alle città, avevano spesso delle torri vuote. Gli architetti facevano questo tipo di lavoro perché Mussolini aveva dato ordine di costruire edifici che avessero torri in ugual misura dei campanili, quindi per ogni campanile di chiesa vi doveva essere una torre, quindi il campanile del fascismo e il campanile cattolico. Questo lo diede, ricordiamo che questa frase la disse prima del 1929, prima quindi dei patti lateranensi, quando ancora era anticlericale, perché spesso vedo biografie di Mussolini che si dimenticano questo, ma Mussolini tutta la sua precedente carriera politica l'aveva basata sullo scontro, è appunto amico di Nenni, quindi socialista, sullo scontro con la Chiesa e anche con la monarchia. Lui era repubblicano e anticlericale, infatti in molti suoi comizi alla fine diceva: se ho detto delle cavolate venga Gesù Cristo in persona a fulminarmi. Si metteva in mezzo, faceva questo siparietto, la gente bravo lo applaudiva. Quando scappò in Svizzera, per esempio, divenne famoso per quella frase. Quindi prima del 29 vi era questo tipo di discorso anche architettonico, e in questo, nella nostra città, che era passata nel frattempo in mani austriache, che aveva vissuto svariate epoche storiche, tornata all'Italia dopo la Prima Guerra Mondiale, appunto la figura di Druso venne praticamente imposta dal fascismo, ed è per questo che nel secondo dopoguerra venne anche accantonata la figura di Druso, nel senso che si accostò un po' troppo spesso Druso al fascismo, e anche questo, secondo me, a mio modo di vedere, è abbastanza sbagliato, perché comunque Druso non è che aveva delle colpe per quello che fecero per quello che fecero 2000 anni dopo di lui. Quindi è per quello che ho voluto un attimino rivalutare anche la figura storica di questo personaggio. E ecco, questa è una cartina della Germania e delle conquiste di Druso, perché Druso, detto il Germanico, venne nominato Germanico alla sua morte. Era usanza romana che quando un generale conquistava una zona prendesse il nome della zona conquistata. Quindi avete sentito parlare sicuramente di Scipione l'Africano, non perché fosse nato in Africa, ma perché avesse appunto sconfitto i cartaginesi in Africa, quindi in Tunisia in quel caso. Oppure Scipione l'Emiliano, anche lui battaglia in Emilia Romagna, e quindi Scipione l'Emiliano. Druso il Germanico perché combatté e sconfisse i Germani in Germania, e fu il primo generale della storia, pochi credo che lo sappiano, a concepire la guerra anfibia, in pratica con il fratello Tiberio, che ricordiamo Tiberio era l'imperatore che venne dopo Augusto, quell'imperatore che di solito nei libri di storia lo descrivono come taciturno, timido, e non avrebbe voluto fare l'imperatore, gli piaceva di più leggere, era però un bravissimo militare, stava antipatico al padre, ad Augusto, stava antipaticissimo al padre, infatti le provò tutte per non farlo diventare imperatore, Però poi ad Augusto morirono i nipoti, morì lo stesso Druso, morirono praticamente tutti gli eredi, e quindi alla fine dovette per forza farlo Tiberio. Però l'impero non rimase in mani sbagliate, perché Tiberio comunque fu un buon amministratore e un buon militare, quindi conosceva perfettamente i confini romani, su dove si potesse intervenire o meno con l'esercito, insomma aveva una visione globale. Ecco, anche Druso aveva una mentalità moderna da un punto di vista sia militare e sia di approccio con le popolazioni anche conquistate. Cioè non era il classico generale pazzoide che arrivava in una zona e iniziava a uccidere tutti oppure a fare rappresaglie. Arrivato anche nella nostra zona, quindi avendo avuto il contatto con la popolazione locale, i Reti, che anche qui quando si parla di Reti si parla di una popolazione formata da tante popolazioni. Il nome Reti venne dato dai Romani, però queste popolazioni erano divise ancora in tribù, quindi noi il nome esatto non lo conosciamo bene. Queste popolazioni chiaramente si univano per necessità, per andare contro all'esercito romano, e con Druso si riuscì a limitare i danni, nel senso che i Reti vennero sconfitti quasi senza combattere, vennero ingannati e poi gli venne fatto vedere che insomma erano talmente inferiori che forse conveniva che collaborassero. Quindi non ci furono grandissimi spargimenti di sangue, anche perché Druso doveva mantenere le proprie truppe fresche per arrivare fino in Germania, quindi non poteva perdere truppe, perdere tempo nella conca di Bolzano. E poi proseguì per il Brennero, si incontrò con il fratello e insieme andarono in Germania. Ecco, qui lui elaborò un piano militare diventato famoso nella storia. In pratica scavò un canale navigabile, pensiamo che siamo a 2000 anni fa, quindi un canale navigabile, e fece entrare la flotta romana, quindi navi, dal mare del nord. Questo canale, che si chiama Fossa Drusina e che a larghi tratti è ancora presente in Germania, su questo canale appunto navigarono le navi che fecero scendere i legionari, e in pratica dal nord vennero attaccate le tribù germaniche. Questo sistema di combattimento era totalmente sconosciuto alle popolazioni del nord, ma anche alle popolazioni del tempo, perché un'operazione del genere richiedeva... Cioè voleva dire avere al seguito ingegneri, operai, militari, marinai, perché comunque vi era un porto, eccetera. Quindi in quella circostanza venne fondata la città di Amburgo e tutte le città che sono sul confine praticamente tra l'odierno Belgio, Olanda, furono tutti castrum romani, sono tutte città fondate in pratica da Tiberio, Druso e da tutti i generali che arriveranno dopo di loro, perché appunto dovevano partire poi da lì per conquistare tutta la Germania, impresa che poi alla fine dei conti però non riuscì del tutto, perché i territori erano veramente ostili e quindi da un punto di vista logistico era molto difficile muoversi al di fuori del territorio romano. Cioè dovete pensare che i romani quando conquistavano costruivano le strade, perché le strade non c'erano, infatti la via Claudia Augusta qui l'ha costruita, ha iniziato Druso, poi hanno finito gli altri. Quindi in un territorio sconosciuto, senza strade e senza particolari punti di riferimento, e quindi a un certo punto si bloccò la conquista di quei territori. Stesso discorso che varrà poi per la Britannia, per l'Inghilterra, perché fondata Londra, poi si arrivò fino alla Scozia, ma le popolazioni di quella zona erano bellicose e non riuscivano a essere romanizzate, quindi non volevano che i romani insomma rompessero le scatole più di tanto, e quindi alla fine i romani dovettero comunque progressivamente ritirarsi e alla fine lasciarono la Britannia. La Britannia nelle alte sfere romane era considerata un capriccio di Cesare, perché fu Cesare ad arrivarci per primo con mezza legione. Lui sbarcò dove adesso è circa Londra, quella zona lì, sbarcò e poi scrisse nel De Bello Gallico che sono stato anche in Britannia. In realtà non fu una conquista, lui diceva di essere il conquistatore delle Gallie e della Britannia, però la Britannia insomma quello se lo propaganda anche la sua. E, per tornare a Druso, quindi Druso venne mandato a fare questo tipo di operazione insieme al fratello, e ricordo che quando partì da Roma per fare questa impresa aveva solamente 23 anni, quindi era stato aveva fatto una sorta di scuola di guerra in Spagna, dove vi erano delle rivolte in corso, eccetera, quindi si era, tra virgolette, allenato lì con un altro paio di generali più anziani di lui, e poi era stato mandato proprio a, siccome si era distinto nei combattimenti, era un ragazzo molto coraggioso, il padre ha deciso di mandarlo proprio a farsi le ossa nella conquista della Germania, perché appunto ci tenesse che tornasse a Roma con un bel bottino e potesse appunto poi essere il legittimo discendente della famiglia di Augusto, di Ottaviano Augusto. E quindi, ripeto, la figura di Druso non è una figura secondaria, è una figura abbastanza primaria nella storia di Roma, e è vero che la storia non si fa con il sé, però se lui non fosse caduto a cavallo, al 90% sarebbe diventato imperatore addirittura, quindi fu una figura storica molto importante, che noi a Bolzano abbiamo, tra virgolette, la fortuna sia passata dalle nostre parti e abbia effettivamente fondato qualcosa, nel senso che alcuni studiosi hanno avete presente dov'è Piazza Domenicani? Dov'è l'università? Quella zona lì, più che Piazza Domenicani, forse più l'università. Ecco, pare che avessero fatto un accampamento in quella zona lì e nella zona dell'odierna Rencio. Quelle sono le due zone più papabili dove potessero esserci stati accampamenti romani. E il famoso ponte sul fiume, c'è chi dice l'Adige, c'è chi dice l'Isarco, c'è chi parla anche del Talvera. Adesso il ponte probabilmente non sarà stato uno, saranno stati più ponti, perché per logica, se si andava verso nord, sicuramente un paio di ponti li avranno costruiti. Poi i romani avevano appunto un esercito molto organizzato, quindi quando arrivavano da qualche parte risistemavano le cose, costruivano dighe, eccetera, quindi in questa zona sicuramente, che era una zona paludosa, non venne costruito chissà che cosa, però un insediamento vi fu, e questo insediamento rimase nell'anonimato fino al 1200 circa, nell'anonimato, diciamo, della storia scritta con la S maiuscola. E qualcuno poi qua magari si chiederà: e allora il nome Bolzano perché è diventato Bolzano? Ecco, il nome Bolzano ha un altro tipo di leggenda, parlo di leggenda perché non è storicamente provato, che voi sapete che quando i romani conquistavano una zona, il territorio che veniva conquistato non veniva lasciato alle persone che ci abitavano prima, venivano mandati in pensione i militari che si distinguevano, cioè più che altro che arrivavano alla fine del servizio militare che durava 20 anni, quindi i militari che arrivavano alla fine prendevano delle zone nuove, quindi conquistate, e anche la nostra regione poi divenne appunto una di quelle zone che era abbastanza anche ambita, perché era abbastanza vicina all'Italia, cioè faceva parte della provincia grande anche dell'Italia, quindi erano abbastanza vicini anche come collegamento, quindi era abbastanza ambita. E sembra che questa zona venne data a un gallo, però gallo di origine ma combattente con i romani, un certo Batium, e da questo nome poi venne fuori, infatti in tedesco Bozen in realtà sarebbe scritto con la T, quindi Bozen, sembra che derivi da questo podere che aveva questo gallo. Chiaramente rimase probabilmente una sorta di piccolo accampamento romano con delle legioni di stanza, ma poca roba, perché il grosso delle legioni romane era al di là della cresta delle Alpi, perché era più difendibile, il valico del Brennero era più difendibile che Bolzano come conca, non era, era un po' complicato. E avevo letto che qui vi erano li chiamiamo oggi noi gli uffici, ma al tempo vi erano gli uffici del fisco. Quindi le truppe che si occupavano degli stipendi dei militari oltre frontiera e riscuotevano i tributi della zona. Quindi praticamente la nostra regione non era militarizzata, non vi erano imponenti opere difensive perché non ve n'era la necessità. E tempo addietro, 6-7 anni fa, infatti ero stato a una mostra che parlava di romani e germani, e dove questo aspetto era spiegato in un altro modo, nel senso che si parlava di un continuo contatto tra Romani e Germani nella nostra regione, che se voi prendete una carta latina era chiamata Noricum, mm-hmm, e poi Rezia, quindi ecco, questi contatti con i Germani secondo me erano un pochino tirati per i capelli a quel tempo, perché i Germani se ne stavano in Germania, nel senso che i Romani costruirono una serie di confini che chiamarono poi limes, quindi il limes era in pratica proprio una barriera vera e propria fatta di legno, di muratura. Dovete proprio immaginarvi un muro, e da lì si entrava e si usciva col permesso imperiale o col permesso della Repubblica, non potevi entrare e uscire, c'era proprio una vera e propria frontiera. Quindi poi qualche popolazione troppo aggressiva o veniva punita al di fuori del confine, quindi veniva mandata una legione apposta e un tribuno che si occupasse della situazione, oppure veniva inglobata nel confine, quindi veniva fatta entrare nel confine romano e si proponeva magari praticamente il generale spesso andava a colloquio col capo tribù e diceva: voi vi inserite dentro nel territorio nostro, potete coltivare la terra, in cambio però ve ne state fermi lì. Perché per l'esercito romano i problemi furono sostanzialmente due nell'espansione dell'impero romano: i pirati che infestavano l'Adriatico e le popolazioni nomadi. Però le popolazioni nomadi erano bellicose, perché ovviamente quando trovavano un bel bottino cercavano di depredare, insomma, boh, arrivavano in città, insomma era sempre un problema avere a che fare, e se i trasporti non sono sicuri chiaramente uno stato non può funzionare. E allora si occupavano di difendere appunto proprio in maniera veramente precisa i confini. E riguardo i pirati, anche questo è un aspetto della storia di Roma che viene sui libri di storia, di solito non vi è scritto o in parte marginale. In realtà fu una guerra vera e propria, nel senso che Cesare da giovane, lo stesso Giulio Cesare, quindi non l'ultimo, combatté per quasi dai 21 ai 35 anni, praticamente lui fece servizio sulle navi che andavano in Grecia e quindi combatté contro i pirati dell'Adriatico e venne addirittura catturato. C'è un episodio simpatico, nel senso, lui venne catturato dai pirati, vennero uccisi tutti i membri del suo equipaggio, lui aveva 25 anni al tempo, i pirati all'inizio videro lui aveva comunque i simboli della Repubblica, era al tempo era un tribuno, e lui si mise a fare anche l'arrogante con i pirati, disse: io sono una personalità a Roma, voi non potete permettervi, adesso io chiamo i miei schiavi, mando i miei schiavi, vi pagheranno il riscatto e mi libero. E i pirati all'inizio non dissero: ma questo qui forse ci prende in giro, invece poi alla fine si resero conto che avevano un personaggio importante tra le mani. Cesare, in maniera anche diciamo un po' come di solito i giovani si dice, no, che abbiano un coraggio al di fuori delle proprie possibilità, lui sfidò molte volte i pirati addirittura in combattimenti corpo a corpo, e loro lo rinchiusero in una gabbia, lui riuscì addirittura a rompere la gabbia, uscì, ogni tanto si metteva a leggere delle poesie e dava degli ignoranti a questi pirati. E la sera, ogni sera, poi lui scrisse nelle sue memorie che promise a questi pirati che una volta che lui sarebbe stato liberato dagli schiavi, li avrebbe fatti impiccare tutti. Questi non lo prendevano sul serio. Alla fine venne liberato, tornò a Roma, si fece pagare, cioè fece in modo di avere un bel esercito, non tanto corposo, però con veterani esperti, tornò nell'Adriatico e andò nel covo, diciamo, dei pirati, quello che nei film si vede spesso, e in pratica li fece impiccare tutti, poi, quindi fu di parola, e si riprese pure il bottino, quindi tornò a Roma con il doppio perché Cesare era una persona molto venale, nel senso che lui basò la sua vita sui soldi, era pieno di debiti all'inizio, poi con una serie di quelli che adesso noi chiamiamo finanziatori, divenne più ricco e riuscì ad avere il potere. E in quel caso lì chiaramente per lui perdere una o due navi era importante. E venale non lo era Druso, invece. Druso abbiamo delle... Scusi, che cos'era quell'arco? Questo è un arco sempre dedicato a Druso che si trova a Spoleto. Questo era per farvi capire che la figura di Druso al tempo dei Romani non era una figura secondaria, e era pur sempre il figlio di Ottaviano Augusto. quindi di una persona importantissima. Abbiamo anche un mese dedicato a lui. E quindi voglio dire, non fu una ho sentito parlare di Druso come persona, come personaggio storico secondario, non è vero. Anzi, venne celebrata la, questa è a Roma, sempre l'arco, un arco dedicato a Druso. Questo è un busto di Druso e sapete dove si trova? Questo si trova al Quirinale, dove vi è anche dedicato, dove vi è anche una sala, la sala di Druso. Quindi vi è una sala col suo busto. Quindi addirittura nel nostro è una sala che ho letto è stata concepita dopo il risorgimento, cioè era questo busto lo aveva un patriota che l'ha donato allo Stato italiano, quindi anche durante il risorgimento queste figure vennero di nuovo a galla, ovviamente, perché una figura, ecco, diciamo che Augusto divenne una figura più positiva forse durante il risorgimento, perché in quel momento lì l'Italia era uno stato diviso, era uno stato alla mercé degli stati stranieri, quindi ricordare un passato metteva entusiasmo alle persone che dovevano fare una rivoluzione. Quindi questi personaggi storici vennero tutti rispolverati nel 1800 e poi dal fascismo, perché appunto il fascismo, ecco, questa è una, ecco, questa è la Rapacis, che è quel famoso monumento appunto che troviamo a Roma in piazza Augusto Imperatore. È un bel monumento e qui al centro di questa fotografia vedete Druso proprio, e venne inserito proprio dopo la sua morte, perché ripeto, Augusto voleva molto bene al figlio. Ecco, vi ho messo Ottaviano Augusto perché è la figura in realtà cardine di tutto il discorso storico che ho fatto, nel senso che è l'imperatore che anche se non ha voluto, perché non fu una sua volontà, però influenzò tra virgolette anche l'architettura della nostra città, perché il monumento alla vittoria, i nomi delle vie, i nomi delle piazze che vennero imposti dal fascismo dopo la seconda guerra mondiale si rifacevano completamente a questo personaggio. Questo personaggio è la fonte di ispirazione massima di Mussolini, quindi tutto il carrozzone di diciamo chiamato carnevalesco del fascismo prendeva spunto da questo personaggio qui. Erano tre fondamentalmente le fonti di ispirazione del fascismo: Augusto, D'Annunzio, ma non si poteva dire perché Mussolini era geloso e quindi faceva finta che anche tutti i motti del fascismo, da me ne frego al motto eia eia allala eccetera, sono tutti motti di D'Annunzio che dopo e scritti durante l'impresa di Fiume, quando Fiume non doveva essere data all'Italia, lui andò coi legionari, quindi chiamò i suoi soldati legionari, e eia eia allala non nacque durante il fascismo ma nacque durante la prima guerra mondiale, e fu lo stesso D'Annunzio a scriverlo sui fazzoletti che usavano gli aviatori per andare in combattimento. Siccome l'urlo di combattimento era diverso, però non era di origine tra virgolette nobile secondo D'Annunzio si inventò fino a un certo punto, perché comunque riprese delle parole antiche, poi le modificò un attimo, e poi però divenne un simbolo, cioè è comunque un grido fascista diventato, perché poi il fascismo riprese tutto, e è lo stesso inno fascista, non nacque dal fascismo. Giovinezza è una canzone che veniva cantata nelle trincee della prima guerra mondiale, e una canzone che non aveva assolutamente a che fare con la politica, ma parlava di giovinezza proprio, dei soldati giovani che andavano a morire, poveretti. Quindi poi il fascismo prese anche quello, perché doveva essere un movimento giovane fondato sui giovani, bla bla bla eccetera. Quindi vi furono queste. Anche il menefrego famosissimo non fu né di D'Annunzio e né di Mussolini, anche lì, sempre nella prima guerra mondiale, è storicamente accertato un colloquio tra un tenente e un maggiore. Il tenente, il maggiore disse al tenente che avrebbe dovuto recarsi con la propria squadra di militari in confine austriaco e avrebbe dovuto rischiare la vita sua e dell'intera squadra per una missione quasi suicida, e in pratica nell'ordine c'era scritto che, essendo la missione suicida, poteva anche non essere fatta, perché l'esercito italiano era arrivato a un punto nel 18 di completo disfacimento morale, cioè i ragazzi venivano proprio buttati sotto le mitragliatrici, perché avevamo il generale Cadorna che aveva questo sistema di ragionamento del ho tanti militari, più ne muoiono e più conquisto metri, ecco, questo era il suo ragionamento. Quindi, e invece il tenente rispose con un me ne frego, io sono qui per volere d'Italia, eccetera eccetera. Quindi fu molto patriottico, si vestì a festa e andò incontro alla morte. Fu questo, venne ricordato così. Quindi il fascismo poi prese tutte queste, diciamo, queste frasette e le fece sue. Come lo stesso Balilla, adesso non so se anche voi conoscete la storia del Balilla, ma il Balilla non è una figura fascista, è anche nel nostro inno, nelle strofe che non sa mai nessuno, si parla del Balilla, perché fu un ragazzino in pratica genovese, che quando gli austriaci e i piemontesi avevano occupato Genova fu il primo a lanciare un sasso contro l'artiglieria austriaca e disse ci muoviamo a tutta la popolazione che guardava, e scoppiò il motto di Genova e vennero cacciati gli austriaci per pochi giorni. Però quindi anche quella è una figura storica presa dal fascismo. Chiaro che adesso se uno va in giro con una maglietta me ne frego gli daranno del fascista, è ovvio, perché purtroppo noi abbiamo nella testa abbiamo quello. Però se con i motti non si può far niente, se non altro spiegarli, magari qualche giovane, adesso ho visto che tra i giovani c'è un po' di confusione, l'altro giorno ho visto un ragazzino che aveva la maglia di Che Guevara e il braccialetto con scritto sopra boia chi molla, quindi sicuramente in lui c'è una certa confusione. Infatti gliel'ho chiesto, la fermata l'altro, scusa, ma tu sai che sono due cose che non vanno d'accordo? Sì, ma mi piaceva il colore, mi ha detto, le braccialette. Quindi Che Guevara pensava fosse uno stilista. Vabbè, purtroppo funziona così. Sì, anche su Che Guevara ho visto una volta, lì mi sono fermato a una manifestazione pro matrimonio omosessuale, 5 persone con la maglietta di Che Guevara. A una di queste ho chiesto, ma tu sai cosa faceva Che Guevara oltre? E fa, no, è stato uno di quelli che ne ha messi di più al muro, gli omosessuali, quindi in teoria alla manifestazione questa non la dovresti mettere. Quindi forse ogni tanto bisognerebbe leggere un po' di più prima di mettere. Per carità, uno può mettersi i simboli che vuole, ma almeno conoscerne la storia o non metterli in... potrebbe essere una provocazione, mettere un simbolo fascista, un simbolo comunista, può essere una provocazione, benissimo, però la devi motivare. Il problema è che non è consapevole, è assolutamente consapevole, perché è stato fatto un film di provocazione, se voi l'avete visto, Full Metal Jacket. C'è il giornalista che è un militare americano che ha il simbolo della pace e ha scritto sull'elmetto ti uccido. A un certo punto del film incontra un generale che gli chiede perché hai il simbolo della pace e hai scritto ti uccido, e lui spiega la cosa in maniera filosofica, dice ma perché l'antitesi yin e yang, questo non capisce niente, gli dice va bene ragazzo, noi vinceremo, adesso vai eccetera. Quindi questo è un discorso di protesta, no? Voleva far capire che era sbagliata la guerra e mise i due simboli, però lo ha motivato. Questo andava in giro così, convinto fosse uno stilista Che Guevara. Sì, sì, sì, sì, stilista. E, ecco, ritornando a Druso, io sarei per una corretta, appunto, visione storica dell'uomo. Quindi Druso venne a Bolzano ne vennero molti dei personaggi storici, da Goethe ne vennero tantissimi, quindi Druso fu uno di quelli, quindi è giusto spiegare cosa è venuto a fare. Più che venirci, lui ci passò, conquistò la zona, lasciò degli ufficiali poi a gestire tutto il discorso. Curiosa è la leggenda che si è creata intorno alla conquista proprio della conca di Bolzano, e leggenda che mi aveva raccontato anche la mia maestra delle elementari, e che ho visto che in alcuni libri di storia anche recenti l'hanno rimessa, in pratica che appunto i romani avessero mandato delle spie che accendessero i fuochi sulle montagne, perché i reti comunicavano con dei fuochi. E quindi i romani, per evitare di sprecare militari, avessero ingannato i reti accendendo questi fuochi in maniera non corretta. I reti fossero tutti scesi a valle, l'esercito romano al buio era già schierato e sulle colline vennero, cioè i centurioni misero sulle colline dei pupazzi, in pratica dei pupazzi, e i reti, spaventati perché convinti appunto che ci fossero più legioni, si arresero senza combattere. Su questa è una... qualche storico riportava un episodio simile, ma questi episodi nella storia romana sono continui. Cioè i romani nella loro storia hanno avuto un problema. All'inizio della civiltà romana le città che erano intorno a Roma erano più potenti di Roma, quindi Roma ha preso un sacco di bastonate. Queste bastonate non potevano essere giustificate, abbiamo un esercito che non funziona, ma ci ha tradito. Allora venivano creati degli eroi, Orazio e Curiazi, Metello, che prima combatte, poi viene mandato via da Roma, poi ritorna perché lo chiamano, dicono no, guarda che tu alla fine sei bravo, lo attorno. Quindi ci spunta sempre un eroe, Muzio Scevola che si brucia la mano per far capire che Roma per lui è tutto. Quindi ci sono queste figure storiche, leggendarie, che diciamo hanno fatto... portavano orgoglio all'animo dei romani, quindi anche nella sconfitta, cioè, di solito gli eroi li deve fare chi perde, chi crea l'eroe chi perde, chi vince la guerra non crea eroi, non ne ha bisogno, ha vinto. Quindi anche uno storico, secondo me, serio, non crea mai l'eroe nello sconfitto, riporta i fatti come sono andati, ma noi avevamo vinto però poi abbiamo perso la guerra. E quindi in questo caso gli storici romani erano di parte, ovviamente, chiaramente facevano sempre vedere che erano stati i romani attaccati, che erano stati i romani aggrediti, in realtà spesso era il contrario. Quindi questi eroi, lo stesso Augusto giustificò tutta la sua carriera politica e militare. Augusto fu il primo imperatore, ma non aveva grandi abilità militari, era un ragazzetto magro, aveva... una statura, era basso di statura, e la corazza gli pesava, infatti la metteva solamente per preparare le truppe, e senza probabilmente il suo generale Agrippa, che invece era un grandissimo generale, e non avrebbe potuto fare quello che fece. Ritornando a proposito a Druso fu anche nonno dell'imperatore Claudio e bisnonno quindi dell'imperatore Nerone. Quindi, come vedete, non fu proprio una figura marginale, cioè fu bisnonno di Nerone e nonno di Claudio, e sposò la moglie di Druso, era la figlia di Marco Antonio, quindi sì, era tutto in famiglia, lì era tutto in famiglia, sì Marco Antonio, la figlia, che si chiamava Antonia, e venne, in pratica nacque in Egitto questa poi la moglie di Antonio se ne tornò a Roma, perché appunto Antonio, come sapete tutti, ebbe questa love story con Cleopatra, che alla storia è passato come l'unico. In realtà Cesare aveva avuto tre figli da Cleopatra, e quello più famoso, Cesarione, che poi appunto venne ucciso da Augusto, e gli altri due vennero portati a Roma e adottati dalla famiglia, cioè praticamente impose alla sorella, cioè alla ex moglie di accudire i figli. È una cosa che adesso sembra fantascienza, ma al tempo era di... anche lo stesso Augusto si innamorò di una donna che era già sposata, però il marito fu ben contento di donarla ad Augusto, anche perché fece carriera politica, quindi al tempo diciamo che era un po' una merce di scambio. Adesso non lo si dice. E quindi è qui per far capire quanto Druso fosse stato. Ecco, a Bolzano abbiamo il ponte Druso, lo stadio Druso e Viale Druso. Viale Druso, durante il fascismo, qualche storico di regime si mise a dire che quella tracciata fu proprio la strada fatta da Druso, quindi con tutti le... non è vero, ovviamente, non è vero, venne fatta quella strada in mezzo alla città con quel nome appunto per va verso la città vecchia, no? Quindi vedete, se voi fate caso, tutta l'architettura della, anche del rione dove siamo adesso, è una sorta di un'aggressione alla città vecchia della serie, vuol far capire adesso ci siamo noi. Quindi tutta l'architettura di questa zona è stata concepita in quel modo lì, e infatti avrebbe dovuto essere il centro di Bolzano moderno. Quindi se il fascismo non fosse caduto, la città vecchia avrebbe perso importanza probabilmente, cioè tutti gli uffici, sarebbe tutto stato portato al di qua, tutto quanto, sì. Quindi il discorso era così. Chiaramente Druso calzava a pennello, quindi era un romano, era effettivamente, storicamente aveva conquistato la zona, quindi per il fascismo, proprio per Mussolini, fu proprio il top. E queste teorie, purtroppo, io dico purtroppo perché questi storici fecero solamente uno sfavore a Druso, e avallarono queste tesi ogni tanto anche inventate, perché poi appunto c'era di mezzo Tolomei, quindi Tolomei qualche cosa la faceva storica, qualche cosa se la inventava, quindi le cose inventate poi purtroppo sono quelle che rimangono di più paradossalmente, e quindi la figura di Druso venne mistificata, nel senso che comunque venne... No, la Bolzano non è la città di Druso, perché Druso è unito a quel periodo là. Invece forse adesso nel 2012, dopo che abbiamo storicizzato il fascismo, cos'è stato, il perché e il per come, forse anche questo personaggio, che non c'entra niente, poveretto, perché era un romano, quindi lui non aveva nulla a che spartire con il fascismo, possa essere anche rivalutato e fatto conoscere alla nostra cittadinanza. Perché ripeto, abbiamo delle opere intitolate a questa persona, ma nessuno sa effettivamente che cosa abbia combinato, oppure viene bollato come era un generale minore, in realtà era figlio di un imperatore, doveva diventare imperatore, il bisnonno di Nerone, che è uno degli imperatori più famosi per svariati motivi, anche lì sarebbe da discutere, però per svariati motivi, quindi, o Claudio, ecco. E vi racconto un ultimo aneddoto prima di concludere. A Druso piaceva un sacco giocare a dadi, e giocava a dadi con Augusto, che era una delle poche attività che faceva sorridere l'imperatore romano. Di solito Augusto era una persona abbastanza schiva, e aveva gli occhi azzurrissimi e che incutevano proprio timore, aveva un fascino magnetico, come appunto anche Mussolini diceva di avere un certo fascino, una certa presa sulle persone. E effettivamente Augusto questo fascino lo aveva, incuteva timore, e infatti Cleopatra non riuscì praticamente Cleopatra, quando Marcantonio si uccise, cosa fece? Cercò di farsi bella e cercò di andare a trattare con Augusto. Invece Augusto non era come Cesare, non era come Marcantonio, quindi a lui non interessava nulla di Cleopatra come donna, e decise proprio, le disse: sì, se vuoi venire a Roma con noi sei la benvenuta, in catene, oppure fai quel che vuoi. In realtà non avrebbe voluto che si fosse suicidata, perché il popolo a Roma avrebbe voluto vederla Cleopatra. I romani odiavano Cleopatra, odiavano, perché Cesare l'aveva portata a Roma. Anche questo è un aspetto della storia romana che non si racconta. Cesare prese Cleopatra, siccome era una regina, quindi, e la portò a Roma, la quale rimase 2 anni lì, non è che rimase un giorno. Chiaramente, provate a pensare, le donne romane mormoravano: porta una straniera a casa, è già sposato, con una straniera, bla bla bla. Quindi odiatissima, anche perché lei era la sacerdotessa principale della religione egiziana, e voi sapete che le divinità egiziane sono per metà animale, per metà uomo, e quindi i romani erano inorriditi da questa cosa. Come si fa a venerare un cane o venerare un mezzo? Quindi anche questo, c'era una sorta di paura quasi blasfema contro questa popolazione. Gli egiziani incutevano un po' di timore ai romani. In realtà nelle alte sfere dello Stato romano non vi era nessun timore, anzi in Egitto i romani ebbero dei buoni traffici commerciali, perché in Egitto era uno stato molto ricco, quindi poteva pagare parecchie tasse. E la Germania no, Druso venne mandato in Germania, però purtroppo da quel punto di vista non poteva dare, a livello di risorse economiche, diede diciamo più problemi che vantaggi, perché per prestigio però Roma non poteva ritirarsi, non era ancora in quella fase di ritiro, era in espansione. Quindi io, se avete delle domande da farmi, prego. La battaglia della selva di Teutoburgo, sì, che è contemporanea di Druso. Sì, poi venne mandato Druso a... L'anno dopo lui che andò a... Esatto, esatto. Conficcati dalle... La signora ha fatto una buona domanda, perché la battaglia di Teutoburgo fu una battaglia in cui il console romano Varo venne annientato dalla popolazione germana insieme a tutte, non si salvò praticamente nessuno. E perché? Perché Arminio, da cui poi derivò questa figura mitologica, poi divenne una figura mitologica, Arminio, che era nato e cresciuto secondo i costumi romani, nato in Germania, di origine germanica, ma cavaliere romano, quindi fece la scuola di guerra, lui era un ufficiale romano. In pratica però Varo, che si fidava di lui perché era un suo ufficiale, si fidò di lui. In realtà nel frattempo lui si era messo d'accordo con le tribù germaniche, quindi poi tradì. Poi la selva di Teutoburgo, io ci sono stato ancora quando non... è molto particolare come posto, infatti l'esercito romano venne sconfitto appunto anche per il territorio lì. Una delle battaglie che però è passata anche quella nel dimenticatoio, perché spesso si parla della battaglia di Cannae, si parla della battaglia di grandi sconfitte romane del Trasimeno, ma quella viene lasciata un po'... Addirittura Augusto... Sì. Era contemporaneo. La sanguinarietà di queste tribù che avevano... Lì erano battaglie... Erano battaglie veramente, veramente cruente. Le popolazioni, i catti, i cheruschi, erano popolazioni violente, avevano un altro modo anche di vedere le cose, quindi chiaramente... Ma sono stati fatti molti studi su questa battaglia, credo che in Germania ci siano... Ma in Germania... Certo, no, in Germania Arminio è un eroe, Arminio è un eroe nazionale, perché chiaramente lui è stato preso come baluardo della difesa, è stato creato poi tutta una serie di... sono stati creati una serie anche di poemi, in tutto il Medioevo lui è stato... osannato come eroe, come Re Artù in Gran Bretagna, che era di origine romana anche lui. E fa ridere quando si vedono i cartoni animati o i film che fanno vedere Re Artù vestito come un cavaliere, no, era vestito come un legionario del Tardo Impero, si parla del 300-400 d.C, quindi non avevano le armature e gli spadoni come la spada nella roccia. Si chiamava Arterius probabilmente, quindi completamente romano. Però poi la storia... l'Inghilterra nel 1200 si ritrovò come l'impero romano con Virgilio. In pratica il re d'Inghilterra disse: ma noi che origini abbiamo? È abbastanza umili. E allora ci inventiamo qualcosa di nobile. Come Virgilio si inventò Enea, che i romani da quattro pastorelli dall'improvviso invece all'eroe greco che arrivò, e lì si inventarono tutto il discorso della tavola rotonda, eccetera eccetera, però quella è proprio invenzione pura, proprio di regime anche. Sì, chi ha il potere, purtroppo o per fortuna, che motivi vari, sì. Resistenza. Se avete delle altre domande, di Tiberio come di un buon imperatore, ma normalmente viene descritto come un personaggio che si era così tirato a capo, sì, un vizioso, corrotto. Ecco, guardi, questa è colpa degli storici. È proprio una figura estremamente... Guardi, sui libri... Ma lei ha perfettamente ragione, perché sui libri di storia si ha Augusto positivo, Tiberio antipatico, vizioso, eccetera. Non è vero invece, perché era molto invece preciso nel costume romano, nel senso che aveva una sorta di religione in testa, addirittura dello Stato, quindi era una persona tutt'altro che viziosa. Qui furono alcuni storici latini e storici medievali cattolici a distruggere la figura anche dell'imperatore Nerone. L'imperatore Nerone non fu assolutamente un cattivo imperatore, fu un imperatore che, tranne qualche follia o qualche, fu un ottimo imperatore. E uguale Tiberio. Tiberio fu un amministratore esemplare dello Stato, lasciò lo Stato romano senza, tra virgolette, disavanzi economici o buchi economici. E Nerone è uguale. Nerone non lasciò lo Stato romano in distruzione, come viene. E il problema lì furono gli storici. E Seneca fu uno di quelli che raccontò delle. Mistificò degli episodi. E quindi è vero che uccise la madre. Ci prova in tutti i modi. Nerone addirittura con una fece costruire una barca che doveva affondare, quindi, però in realtà non fu un cattivo. Furono tantissimi storici medievali che purtroppo andarono a mistificare certe conoscenze che poi ci sono state tramandate sbagliate, perché Nerone, ultimamente ho visto qualche libro in giro che lo sta rivalutando, era anche ora, perché lui era, e Tiberio forse più di lui, perché Nerone è vero che aveva, non è vero che faceva lega. Tacito poi ha fatto il ricamino finale, però Nerone ad esempio non è vero che faceva queste famose gare dove lui doveva strimpellare. Sono tutti piccoli episodi che sono stati amplificati, e anche da Seneca, che Seneca sapete, no, era all'inizio pensava di poter manipolare Nerone, poi si rese conto, Nerone non era una persona, era molto intelligente come persona, quindi quando si rese conto che Seneca faceva un gioco sbagliato, chiaramente venne allontanato Seneca, da lì iniziò a parlarne male. E poi in più gli storici appunto medievali presero solamente alcune fonti, quindi lasciarono perdere chi ne parlava bene e iniziarono a parlarne male sistematicamente. E voi sapete che in quel periodo la cultura era incanalata, i libri venivano ricopiati nei monasteri, quindi ovviamente queste figure non è che venivano rivalutate, dipendeva poi da chi studiava, e quindi alcune vennero svalutate. La censura era forte. Eh sì, una censura fortissima. Chiaramente ci furono imperatori che fecero molto, ma molti più danni di Nerone. Elio Gabalo, che non lo conosce nessuno, tutto il giorno si dipingeva d'oro e si faceva adorare come una divinità egizia. Però io penso che non lo conosca nessuno. 3 anni di governo, dei disastri militari che non sapevano che cosa fare, al confine mandava, poi ritirava truppe, quindi fece dei danni incredibili con la madre che comandava, peggio di Nerone, pure tutti parlano di Nerone. Quindi prego. Sto riflettendo sul parallelismo di queste figure storiche, cioè Druso, e 2000 anni dopo è la strumentalizzazione di Walter von Brueggemann, che doveva rappresentare l'emblema, la barriera alla minaccia di italianizzazione, che poi è stata inventata questa storia, che veniva da quel maso, che portava questo nome, poi naturalmente per reazione il fascismo lo ha scantonato, e per gli italiani era un po' il tutto, cioè per me era il personaggio insignificante. Indubbiamente, ma sì, ma è ovvio, qui purtroppo Walter a Bolzano, che è messo con la faccia verso sud, e Dante a Trento con la faccia verso nord, chiaramente gli fanno fare la guerra ai due poeti che, poveretti, erano tutt'altro che guerrafondai. Quindi ripeto, purtroppo c'è una certa mistificazione, e adesso finché si parla di inizio Novecento, quindi il sindaco Peratoner potevo anche capirlo ai suoi tempi, lui faceva parte di un impero, quindi mi fa ogni tanto ridere quando lo sento fare nel 2000, dopo il 2012, vi sono ancora persone o addirittura professori che parlano di D'Annunzio male, e è ovvio, D'Annunzio può piacere o non piacere, può far schifo o non far schifo, però gli si deve dare atto di certe cose. Ad esempio, non è mai stato iscritto al Partito Nazionale Fascista, simpatizzava, verissimo, però è morto tra virgolette in esilio, non è morto come ministro, quindi questo se non altro va raccontato, non va detto, non va inventato, va raccontato com'è la storia nel fatto. Cioè, lui l'ha presa sta tessera, perché una volta io ho avuto una discussione con uno che era assolutamente contro, l'ha presa no, e allora non era del PNF, vede, anche lì una figura negativa, però gli abbiamo dedicato le scuole perché non abbiamo il coraggio di Vittorini era fascista dichiarato, nessuno si è mai scandalizzato, e il Nobel a Pirandello firmò tutto, Pirandello era fascista, lì non ci possiamo, non possiamo, perché Pirandello era positivo, perché ha vinto il Nobel, però ecco, lì non l'ho mai capito, io a scuola l'avevo chiesto anche al professore ai miei tempi, lì non l'ho mai capita, perché a me Pirandello personalmente piace, nulla contro, però figura di una... Mi hanno presentato Augusto e Pirandello come se fossero due santi, in realtà uno era arrivato al potere con peggio di Mussolini forse, perché ne ha ammazzati sicuramente di più Augusto che Mussolini, per al potere, sicuramente. L'altro era un grandissimo letterato, ma di regime. Non era a Ponza, era a fare l'accademico. Quindi anche lì va preso in un certo modo, no? Anche Ungaretti, non è che proprio andò in esilio, eccetera. Fermi si oppose a certe. Però anche lo stesso Marconi, perché dedicargli una via? Allora? Cioè, delle volte in Italia abbiamo fatto un po' il minestrone con. Anche D'Annunzio è negativo, ma gli dedichiamo le scuole perché non c'è il coraggio di dire che. Cioè. Però potrebbero spiegarlo in una maniera tanto semplice. Ha inventato la parola tramezzino, non fa male a nessuno. Da sandwich in italiano non c'era, lui si è inventato tramezzino. È stato il primo a fare la reclame dei profumi perché non aveva soldi, ha messo il suo nome sui profumi. Sono cavolate, però magari a uno studente gli si dà un'idea globale del poeta. Poi che lui andasse con l'aereo, buttasse i volantini, è rimasto senza. Eravamo anche nel 1900, cioè a cavallo. E eravamo in una situazione diversa, come dice lei giustamente, il poeta in questo caso non c'entra nulla, è dopo che va storicizzato. Chiaro che lui era anche un fuori classe, diciamo, della poesia, quindi si permetteva anche certe cose. Secondo me è un po' sciocco quando si danno dei giudizi su personaggi del genere troppo marcati, ovvio. Su Hitler non si possono andare, però su un poeta di questo tipo secondo me andrebbe storicizzato un po' meglio, se non meno a scuola. Poi sì? Quella torre lassù verso Torre Druso? Che chiamiamo Torre Druso? Torre Druso non... Allora, la Torre Druso non c'entra con Druso, in realtà è stata dedicata a Druso. Probabilmente quello era un castrum romano, probabilmente originale, poi... Prego? È di origine romana. Sì, probabilmente le fondamenta sono romane, le fondamenta, però poi è medievale, sì, sì. Lì vi hanno abitato alcune famiglie e poi, sapete, in Alto Adige, nel 1300, dire di avere origini romane era considerata una questione di prestigio, non era... Anche l'impero austro-ungarico aveva il simbolo l'aquila, sì. E l'imperatore si faceva fare ancora tutti i rigori come gli imperatori romani, quindi... Non faceva schifo, essere dello stesso partito. Lui del resto è medievale. Esatto, sì. Perché qui in tedesco la chiama di sette torri. Esatto. La torre a strati. Cioè. Esatto, sì. Sì, perché ha... Sa perché è così? È ben giusto così, Perché ha... si vedono tutte le varie costruzioni dei vari secoli. Come la città di Troia quando venne trovata, che c'erano sette Troie una sopra l'altra. È vero che Druso si è spinto fino in Oriente, fino all'Elba praticamente. Sì, è caduto dal cavallo sul fiume Elba. È caduto dal cavallo e si è portato con la gamba fratturata fino a Magdeburgo. Sì. È vero. Magonza, sì, che dopo è morto in realtà Magonza, però è caduto dal cavallo sul fiume Elba. Poi lui non. Forse se fosse tornato a Roma si sarebbe salvato, forse, non lo so. È che probabilmente deve avergli fatto infezione, è morto. Ma tu è andato in embolo o qualcosa? Probabilmente, sì, penso di sì. Penso infezione, penso. È vero che dovevano il famoso lì doveva essere Porto Elba, sì. Perché si sono ritirati perché non c'era nulla da depredare. Sì, no, perché la Germania di quel tempo non aveva territori. Tutto foreste. Erano foreste, infatti, ripeto, io sono stato a Teutoburgo e effettivamente era un territorio veramente ostile. Quindi freddo, foreste, gente che ti spuntava fuori ogni tanto con qualche problema. Era un territorio chiaramente di difficile amministrazione. quindi fino a quasi in Polonia, sì. Ma il progetto originale, il progetto era arrivare quasi fino ai monti Ural in Russia, quello era il progetto. Poi sai, i progetti, sì i romani, sì. Conosco una ragazza che è armena, che non è più visitare, no, lì hanno anche costruito, certo, proprio Nerone fece anche qualcosina in Armenia, quindi no è chiaro, sì, anche in Crimea. Sì. E poi anche al di fuori dell'impero venne costruito qualcosa. Sì. Poi sa, noi il confine completamente esatto. Ma un Inves era il Valo Adriano. Ecco, quello sì, perché Adriano in pratica costruì proprio un muro di fatto di pietra, quindi tolse il legno e mise la pietra, sì, per tenere fuori le popolazioni. Il tigre del Frate verso Medio Oriente, no? Esatto, prego? Il tigre del Frate. Sì, arrivarono fino lì. Sì. C'erano dei limes lì, insomma. Sì, sì, ma Cesare avrebbe voluto conquistare tutto quel territorio, perché lui nella sua testa aveva Alessandro Magno. Infatti arrivò a 33 anni, che a questo punto è un'età, e si mise a piangere vedendo una statua di Alessandro Magno in Spagna, e disse: io a 33 anni cosa ho fatto, a parte i pirati, niente, perché ancora non aveva conquistato la Gallia. E Alessandro Magno a 33 anni aveva conquistato tutto il mondo conosciuto. Allora da lì gli venne in mente di... però non riuscì mai. E Cesare, quando venne ucciso, stava preparando la guerra ai parti, dove avrebbe dovuto partire pochi giorni dopo per l'Oriente, i parti che si trovavano dove adesso c'è l'Iran, sì, e che erano una popolazione non facile, perché aveva già fatto parecchi guai. No, lì Augusto poi ha lasciato un attimino perdere, e poi sono stati conquistati poi dopo da Tiberio in poi, in pratica. Ma poi lì, sa, il confine era difficile, perché lì venivano perse le città un anno, riconquistate l'anno dopo. Erano, le regioni di confine erano abbastanza difficili da mantenere. Sì. Possiamo chiedere una cosa? Sì. Delle foto, perché mi chiedono se sono visto tutte le foto. No, lei ha messo tante foto. Sì. Penso che siano collegate a quelle. Le abbiamo viste tutte? Invece sì. Le abbiamo viste solo. No, le abbiamo viste tutte, signora. Tutte? Guardi, sì, sì. È che io parlo. Io parlo, ma le ho fatte. Ma quelle piccole che c'erano. Questa è una di quelle piccole, sì, sì. Le ho fatte vedere tutte. No, ma questa era il Ponte Talgora. Cos'è il Ponte Talgora questo? Sì. Poi c'era anche il monumento alla vittoria. Questo non l'avevo visto. Perché questo l'avevo fatta vedere nell'altra conferenza, era lo stadio Druso, sai, allora. No, mi sembrava superfluo. Conferenza non c'ero. Comunque con Marco Pugliese ci troviamo poi anche in gennaio, il prossimo appuntamento sarà verso la fine verso di gennaio. Verso la fine di gennaio. Su che tema? Ancora vediamo. Comunque sempre foto. Ma perché lei l'aveva fatta vedere l'altra volta. Sì, l'ho fatta vedere l'altra volta. Grazie. Buona serata a tutti, grazie.